Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese a Belfast. Ma non l'avete visto ancora bene? Cosa vuol dire? Un bambino sputato dal centro di una guerra, in un cortile, in un palazzo a 5 piani, più o meno senza sole. Cercare tra la neve le sue prime parole. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Mio padre a quel tempo aveva i baffi e un'automobile a carbone. Girava il mondo con gli amici, lui girava da padrone. Oggi all'osteria del futuro, io coi miei amici a sbattere la testa contro il muro, a bere vino, a parlare delle donne o del futuro da cambiare. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Tu che nascerai sotto un ponte da una cagna regina di strada. Tu con una stella sulla fronte, tu racconta una fermata. Ragazzi italiani, ci sarai anche tu. E tu che nasci domani, tu sì, è proprio tu. Ma non l'hai visto ancora bene. Cosa vuol dire? Con in mano pochi anni e sapere già come andrà a finire. Confusione tra le vene, vivere quasi in un mondo che non ti appartiene. Con la tua valigia in mano, col tuo passato che è passato, e il tuo futuro è già lontano. Dei ragazzi italiani, ora parlane tu. E coi ragazzi italiani, ora sto. Sì, proprio tu. E coi ragazzi italiani, ora storci tu. Dei ragazzi italiani, ora parlane tu. E coi ragazzi italiani, ora storci tu. Thank you.